Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica, inizia il riposo del guerriero, rotocalco di Radio 24. Come sapete, queste puntate estive sono dedicate a un colore dell'estate. Oggi è il momento del giallo e così, quando penso al giallo, a me viene in mente il sorriso, il divertimento e anche la comicità. Anche in questa puntata avremo Francesca Dragotto, la nostra glottologa, poi consigli per la lettura di Alessandra Tedesco, giocheremo e videogiocheremo con Andrea Ligabue ed Emilio Cozzi, andremo al cinema con Marta Cagnola, uniremo anche cinema e gusto con Marco Lombardi, il cinegustologo, e chiuderemo come sempre con i suggerimenti enogastronomici del nostro gastronauta Davide Paolini. Cominciamo quindi a sorridere, anzi a ridere, con un gruppo che non c'è più e che un po' mi manca, e una bella canzone. Grandissimo successo di Rotta su Cuba, ormai però sono passati un po' di anni e un po' mi mancano. Però parliamo adesso invece con chi ci fa ridere, anche per capire che vita fa davvero un comico. Sentiamo. C'è Forest. Cosa sta facendo? Ma cosa farà? Ma lei è disagista anche. Vabbè, ragazzi, no, il pubblico deve essere a posto perché adesso è il momento di ma una... Ma se lei è il primo che è conciato uno schifo, cosa deve essere a posto il pubblico? Sempre a criticare, sempre a criticare. È il momento di una grande ospite, un'amica, capito? Che non va mai ospita da nessuna parte perché fa già tanto un sacco di programmi lei, capito? Dove non ha tempo di andare. Ma per me ha trovato un buco, capito? Sì, sì. L'ho tempestata di messaggini, capito? E come domando i messaggini io, nessuno mi sa dire di no. Ma cosa ci faccio le donne con i miei alluci? Cosa gli faccio? Lasciamo stare, vabbè, lasciamo da quando stare. Fa Pilates sei pollici. Solo con gli alluci, purtroppo. Bene, ma lasciamo ragazzi, stare. Allora vi faccio un quizzettino per indovinare chi è, va bene? Sì, vi do un aiutino. Allora, è una mia ex. Vabbè. Questo è non troppo aiuta, vasto, perché sono stato con tutte, capito? Non aiuta. Sì. Bene, allora è stata una vostra presentatrice storica. Quale? Non è la Marcuzzi, no? Non è Ellen Eating, no? Non è Teo Teocoli. Ma lei è il presentatore, se l'ho detto, un motivo ci sarà. Bene, martire martedì, Simona Ventura! Questa non è Simona Ventura. Simona Ventura! Questa è, è Sara Ventura. Ma tu sei la sorella, sei Sara Ventura. Sì. Che ci fai qua, scusa? Mi hai invitato tu, mi hai mandato un sacco di messaggini. Sì, ma io i messaggini a tua sorella volevo mandarli, mica a te. Ma me li hai mandati a me. Scusa, ma adesso io non lo so. Tanto non è carino dirglielo. No, ma non lo so. Però se adesso te ne puoi andare, per favore. Ho capito che è successo, ragazzi. Cos'è successo? Ho memorizzato S. Ventura, io pensavo Simona Ventura. Invece era Sventura. Invece Sara Ventura, quindi te ne devi andare, mi dispiace. Vabbè, però. Che fregatura che ho preso, vabbè, ragazzi. Che fregatura l'ho presa io perché ho rinunciato a un lavoro importantissimo per venire qua. Sentiamo questo lavoro importante. Avevo tre pose in un porno coi nani. Ma come un porno coi nani? Vabbè ragazzi, non è mica colpa mia, ragazzi, è colpa dei tuoi genitori, scusa. Perché? Se i tuoi genitori non sanno dare i nomi ai figli, cioè due figlie, S. Ventura, con tutti i nomi che ci sono, tutte S, capito? Ma sono fatti loro, scusa. Allora, tu prendi il nome di tuo padre, lei si prende il nome di sua madre, e io così non ho problemi, scusate. Ma innanzitutto i miei genitori non li devi toccare, e i tuoi genitori lo sanno che hanno un figlio deficiente. Lo sanno. Allora, tu a mio fratello lo lasci stare, va bene? Non si parlava del fratello. E a proposito di deficienti, pensa a tua sorella. Oh. Non toccare mia sorella. Me lo dovevi dire molto tempo prima. Non solo a me, ma... Poi cominciano a prendersi a botte, cominciano a prendersi a schiaffi, molto divertente, la gag è veramente molto divertente. Equivoci tra fratelli. È vero. Ma ti è capitato anche di godere, voglio dire, di questo equivoco? Beh, una volta mi è capitata una cosa curiosa, chiama al telefono ancora il fisso a casa una fidanzata di mio fratello e pensava fossi io. Vedi, e quindi ha cominciato a dirmi delle cose porcone al telefono e io chiaramente sono stato al gioco, è stato molto divertente. Intendevo proprio questo. Meno divertente per lei quando ha scoperto che invece non ero io. Ecco. Non ti ha fatto niente. No, meno male. Mio fratello però devo dire che si è messo molto a ridere, la cosa l'ha divertito. Michele Foresta, buona domenica. Ma che buona domenica, ma ti sembra l'ora di chiamare le persone? Vabbè, io ci ho provato. Nel pieno della notte. So che non dormi mai, è vero o non è vero? Me lo sono inventato adesso, per la verità. Io dormo 6 ore a notte. Quindi poco, vedi che ho ragione. Poi 6 ore di giorno. Sì. Poi dormo mentre guido, quindi poi recupero. Quello te lo sconsiglio, francamente. Allora, tanti dicono, vorrei essere il mago Forrest. Ma tanti chi? No, io neanche io lo dico. Ma sai, il mestiere che fai comunque è un mestiere ambito, perché la gente tanto vede solo quell'aspetto. Ambito, bravo, è un mestiere ambito. Ho detto ambito. Ambito. Nel senso che la gente poi vede solo quell'aspetto, sei simpatico, indubbiamente lo sei, la battuta sempre pronta, sai sempre che cosa dire, e sei sempre attorniato da belle donne, e quindi alla fine tutti dicono vorrei essere bravo come lui, simpatico come lui. Ma diceva Woody Allen che vengo meglio nella finzione che nella realtà. È chiaro che non può essere tutto vero quello che si vede in televisione se ascolta la radio, capito? Quindi quella è una faccia, però diciamo che l'altra faccia non è lontana da quello che poi rappresento. Però non è sempre così, sarei un pazzo, sarei furioso. Ecco, il fatto che tu abbia sempre la battuta pronta, per esempio, e questo, insomma, tante volte ho visto Michele dal vivo, che insomma è più difficile lavorare dal vivo, perché le cose sono lì e devi veramente improvvisare, e francamente tu davvero la battuta pronta e anche molto comica ce l'hai sempre. Questo è qualcosa che hai anche nella tua vita quotidiana, oppure in quel senso ti limiti un po'? Alla fine, ognuno deve cercare di fare quello che gli è più congeniale. A me è più congeniale fare il cretino, e quindi può darsi che mi venga bene, questo non lo so. Ma guarda che non è facile, c'è chi fa il cretino ma non risulta comico. Però io non saprei mai fare una puntura. Parla con gli infermieri che invece lo fanno con disinvoltura. Io se vedo una siringa vengo, capito? E quindi ognuno fa quello per cui è portato, capito? O Filè fa il tuo mestiere, no? Dicono i milanesi. Ma noi milanesi diciamo il Filè fa il suo mestiere. Esatto. E tacchi tac, tac, mi metacchi. Tac. Era difficile da imparare, però insomma te la ricordi ancora. Senti, da piccolo cosa volevi fare in realtà? Ma da piccolo non lo so, il mio eroe era ed è mio papà, no? Che faceva il carpentiere, ma proprio quelli di una volta, quando costruivano le case, le piccole case, quindi facevano le armature armature in legno, quindi erano quasi degli scultori, degli artisti, quindi quella cosa lì mi affascinava, il mestiere di mio padre. E poi non lo so, poi le cose capitano per caso. A me sarebbe piaciuto nello spettacolo anche fare il macchinista, sai, quello che sta dietro le quinte e fa gli accrocchi, o un mezzo scenografo. Sì, diciamo che non avevi l'esigenza di essere in scena per forza sul palcoscenico, ma ti sarebbe piaciuto lavorare anche dietro le quinte. Sì, infatti quando sono arrivato a Milano a scuola, sai, le solite commedie scolastiche che si fanno alle superiori, così mi piaceva il fatto di far ridere i miei compagni, i professori, prendevo sempre la parola durante, che ne so, le riunioni d'istituto, durante i momenti seri o di battaglia, io facevo sempre il coglione, diciamo così, capito? Quindi tutti aspettavano il mio intervento, quindi iniziavo a saporare da ragazzo così, un po' sta voglia di far ridere. Poi sono arrivato a Milano a studiare e ancora non avevo le idee chiare, poi le cose capitano, mi piaceva Macrone, che era questo mago, tu ti ricordi perché sei più anziano di me? Sì, perché ha fatto scuola anche, voglio dire. Scuola, è un personaggio, quindi era questo antimago, poi ho approfondito così, a fare magie sbagliate, a fare parodie. Poi parodie del mago, poi parodie del presentatore, poi parodie di me stesso, e questo è quello che fa. A Milano sei venuto su per studiare che cosa? Non lo so, io avevo voglia di abitavo a Nicosia, un piccolo paesino in provincia di Enna, andate a visitarlo perché è bellissimo. E niente, volevo fare lo spettacolo, ma non so cosa, capito? C'è qualcosa, cioè anche dietro le quinte andava bene, però dovevi lavorare in questo mondo. E tu cosa ti dicevano? Lavoravo a Milano come barista in un bar. Però andavo a caccia di corsi, di stage, e mi ha illuminato poi un manifesto di una scuola di mimo, che si chiamava Il Palcoscenico, che era una costola di quelle di Grock, e lì ho iniziato a frequentare persone che avevano le mie stesse passioni, e da lì è iniziato tutto, no? Ecco, i tuoi non ti hanno mai ostacolato in questo senso, ci hanno trovati un lavoro serio perché quello che ci doveva finire. Mia mamma me lo dice anche adesso, trovati un lavoro serio, figuriamoci quando avevo 18 anni o 20 anni, capito? Non capivano. Poi, quando sempre più spesso ho iniziato a vedermi in televisione, ho capito che... che poteva essere un mestiere, che non poteva farlo solo Baudo e la Carrà. Allora, sono... Senti, è la vita che tu vorresti anche per i tuoi figli, la tua? Ma secondo me, se un giorno ci svegliassimo con la faccia di un altro o un'altra persona, non ci piacerebbe assolutamente, no? Ci rifiuteremo qualsiasi cosa che non noi stessi. Quindi sì, è la vita che vorrei, sì. Va bene così, diciamo, anzi, è andata fin troppo bene. Grazie al Mago Forrest. Grazie a te. Torna a dormire. Ciao. Buona domenica. È perché gli artisti dormono sempre, dovete saperlo, sì, la domenica, no. La mattina, certo. Non sono mai svegli. Sì, soprattutto no? Quelli che hanno figli, soprattutto quelle che hanno figli, sempre. Infatti, guarda, hai toccato un argomento, io sì, sempre, sono Alessandra Faiella, no, lo dico sì, no, perché... in tre minuti lo ogni diciamo, tre minuti sì, diciamo. Ti no, perché noi attrici che abbiamo figli sì. E che siamo in effetti più sfortunate rispetto ad altre che magari non li hanno, sfortunate nel beh, senso sì, dei esatto, risvegli. Cioè, eh. Bellissima cosa. E quando mi dicevano, perché voi vi svegliate tardi, ma mi viene dei nervi. Mi sono svegliata alle 7 per accompagnare mio figlio a scuola, tutte le mattine lo faccio. E mi state dicendo, Filippo Reggi, in regia, anche i tecnici con figli che si devono alzare alle 4 perché hanno il turno di mattina, come in questo ci caso. Ci sono categorie sì. Penalizzate. No, in effetti poi noi che magari facciamo tardi, non sempre, ma insomma facciamo le serate, eccetera, diventa abbastanza faticoso. Allora, gli artisti, comici, soprattutto, sei un'attrice. Sì. Diciamo che sei un'attrice sì. In primis. In primis. Però perché è una cosa importante, perché tu, se no dico... fa la pirla perché dice le cretinate. Invece mi sono anche laureata due volte quasi due volte sì. No, perché Alessandra Faiella non so, ma perché sei masochista, tu hai questa vena sì, ho una pulsione masochista rispetto allo studio. Ha sì. Cominciato a dare si è iscritta a filosofia prima sì alla statale a Milano sì, sì, sì. Ha dato 10 esami esatto tutti andati bene. Ma no, avevo tutti 30 lode ma secchiona proprio. Ma facevo schifo sì ma però ci mettevo facevi ridere i professori. Cosa no questo liceo. Al liceo invece la scampavo sempre per il rotto della cuffia. Spero che mio figlio non stia sentendo. No, è andato in vacanza. Non ancora partito. Perché lì ero con la mia simpatia in materie in cui facevo schifo, tipo matematica, chimica, puntavo sulla mia. E in effetti funzionava. Sì. Sì, io non sono sempre passata per il rotto della cuffia. Invece poi facendo le materie che mi piacevano, quindi filosofia prima, il DAMS dopo, lì mi sbizzarrivo. Però devo dire che stavo mesi sui libri, anche perché non c'erano le lauree brevi e quindi davano tanti, cioè ogni esame era pieno di libri, dei testi alti, 400 pagine, quindi bisognava studiare. E il masochismo di Alessandra masochismo è stato questo, esatto, cioè 10 esami dati, poi ha lasciato, sì. Hai continuato a fare il tuo bel mestiere di attrice, sì, sì, sì. E poi hai detto mi riscrivo sì. Al DAMS a Bologna, sì. Così anche più lontano e più complicato, esatto. E malgrado i 10 esami dati sarebbero andati stati qualcuno sarebbe stato utilizzato, sì, potevano diciamo tenermeli buoni anche per la seconda laurea. Rido. Sì, perché praticamente io volevo iscrivermi subito, invece per problemi burocratici, se loro avessero accettato i miei esami dovevo iscrivermi l'anno dopo perché non c'era più tempo. Lei fa la rinuncia agli studi? Sì. Sì. Faccio la rinuncia e quindi non mi hanno abbonato neanche esamoni tipo estetica, storia della lettura italiana, li ho dovuti rifare, ma io godevo. Stavo notando che anche tu sei della Vergine. Forse per questo. Anche Flavio Reglio è della Vergine. Anch'io sono della Vergine. Siamo pieni di Vergini, sì, in senso sì, esatto. Vabbè. Zodiacale. Allora, Alessandra Faiella decide però di fare attrice da subito, perché è la sua passione e studi. Sì, studio e contemporaneamente lavoro. Ho iniziato, sì, ho fatto, vabbè, la scuola di quelli di Grock, che a Milano l'hanno fatta tutti, non solo gli attori. C'è anche chi ha insegnato a così. Sì, no, no, anche fornai, idraulici, mi è capitato di... Ma lei fa l'idraulico, sì, che scuola ha fatto? Quelli di Grock. Ma come? Sì, è una scuola molto frequentata. Poi ho fatto, sono andata anche a fare un corso di clown a Parigi con un Lecocchiano, che è Le Goliet, poi al Teatro Officina con Massimo De Vita, è stato un po' il mio primo maestro, perché mi ha fatto andare subito sul palco, infatti ho iniziato con lui, era un insegnamento però già attivo, ho iniziato prima col teatro per ragazzi, poi già con qualcosa per i grandi. quindi studiavo e contemporaneamente lavoravo. Vorresti che tuo figlio facesse l'artista? Bene, purtroppo piove ancora. Quando è che parte? Quando è che parte? Tra poco. Allora, quindi dopo te la posso rifare la domanda? Me la puoi fare oggi pomeriggio. Va bene. No, in realtà sì e no. C'è il precariato... Costante. È costante e quindi... Da mamma il precariato costante pesa di più? Da mamma sì, molto, molto di più, non c'è paragone. Nel momento in cui hai un figlio il precariato diventa un'angoscia perché dici cosa farò, riuscirò a pagare il mutuo. Ti devo dire che quest'anno è il primo anno della mia vita, io ho anche una veneranda età che non dirò, però insomma non sono più di primo pelo, come si dice, è il primo anno della mia vita che io ho la stagione già definita, cioè io so che cosa farò tutto l'anno prossimo. Io per la prima volta infatti nella mia vita so che cosa farò l'anno prossimo, ma è un caso. E sei contenta? E sono felicissima. Sì, certo. Sì, perché appunto sì. C'è il problema anche della prole. Finché sei giovane, scanzonato e senza figli, ma chi se ne frega, mangi pane e cipolla, se ti sfrattano vai a casa di un'amica. Ma invece quando hai un figlio... Beh, penso che anche l'età cambia, al di là di avere figli o meno, sì, perché certo. A 20 anni magari lo fai tranquillamente, a 50 meno. Sì, sì, sì, è tutto diverso. Anche ti vuoi concedere anche uno stile di vita che non sia proprio fatto di ristrettezze, quindi però per fortuna hai sempre alti e bassi, almeno nella mia vita ho avuto qualche collega forse più fortunato o più bravo, non lo so, ha avuto più continuità, io ho sempre avuto molti alti e bassi, periodi proprio di cali pesanti. Un po' pesanti e poi riprese, però insomma l'importante è rimanere a galla. No, questo sicuramente, ma i miti, vogliamo sfatare dei miti legati alla vita d'artista? Tipo? Non lo so, ce ne sono, uno l'abbiamo detto, il fatto che uno potete dormire presto, quando volete. Sì. L'altro, le persone pensano sempre che tu, se ti vedono soprattutto in televisione, che tu sia una star, quindi si sorprendono che tu vada al supermercato. Tipo, non mi è successo un sacco di volte di andare a fare la spesa, io vado sempre. Ma lei, ma cosa ci fa qui? Bravo, cosa ci fa qui? In che senso? Gli rispondo, no, perché pensavo, no, che lei siccome, cosa? Devo mandare, pensano che io abbia schiere di golf che vanno a fare la spesa per me. Non ce li hai? No. Neanche la scorta che va a farti la spesa? No, niente. Ecco, loro pensano, se appena ti vedono in televisione intanto pensano che tu sia miliardario, ma magari pensano che appunto tu faccia, non so, abbia la piscina, io abito a Milano. Hai la vasca da bagno o solo la doccia? In un quartiere periferico, ecco. Ho una vasca da bagno con la doccia, quindi una cosa orrenda, però... pensano che immediatamente se tu appunto compari in televisione tu sia veramente una star. C'è ancora questo mito della televisione? Ancora un po' sì. Penso ancora un po'. Siamo noi che la facciamo, che sappiamo che in televisione adesso è tutto diverso, che poi in televisione è sempre stato diverso. C'è chi guadagna e guadagnava davvero tanti soldi e poi una schiera di persone che non... Proprio una schiera, una schiera, diciamo. Sì, perché... che invece anche partecipando a programmi anche di successo non hanno mai guadagnato grandi cifre. Anzi, più programmi di successo e beh, insomma, diamo visibilità, esatto, per cui cosa vuoi, bravo, cambio, bravo. Niente. E infatti certo. Anch'io sono sempre stata un po' sfortunata perché all'inizio facevo i programmi in cui appunto debuttavo, tipo il Pippo Kennedy Show con la Serena Dandini, sì. Ho fatto questo personaggio ambient che ha avuto un sacco di successo. Me lo ricordo molto bene. E il programma è chiuso in un anno. Cioè, mentre gli altri programmi vanno avanti, cioè la Jalapa è stata avanti 20 anni e quindi i comici sono andati avanti almeno, non so, almeno 10 anni, qualcuno 5, ma insomma, io... Fortunata come sono, no, non lo facciamo più l'anno prossimo. Ma come? Un programma di successo, tutti parlavano di quello, Guzzanti, le cose, no, per problemi nostri, cose. E quindi a terra, giù, dopo il boom, già a terra. Ho fatto la Jalapas un anno, poi Zelig 2 anni, io non sono mai riuscita a fare, quindi non ho avuto mai neanche la possibilità. Appunto di incrementare, di vedere veramente dei guadagni, anche perché all'inizio ti dicono sei all'inizio, giusto, devi investire su di e te. E poi in televisione ogni volta che tu vai in una rete nuova ricominci da zero, sì. Quindi il cachet è basso, ma com'è così basso? Io ho già fatto la Rai 2, Rai 2, ma qui siamo su Italia 1, e quindi parti da zero, quindi, insomma, riuscita. Per cui vado al supermercato. Grazie ad Alessandra Fagliella, che potrete incontrare in tutti i supermercati d'Italia. Il riposo del guerriero. Freezing cold in 8 9 2 0. Senti chi parla. Io non so quanto la lingua italiana faccia ridere, probabilmente lo farà sicuramente, ma di più lo farà Francesca Dragotto, che avrà trovato indubbiamente dei legami con il colore di oggi, che è il giallo. Ciao Francesca. Buongiorno, non so se prenderlo come un complimento, comunque no, grazie. Avrebbe voluto essere un complimento, anche se capisco che poteva non sembrarlo, ma era un complimento. Allora, ma non importa, vabbè, buona domenica. A me abbiamo riso, no? Visto che il giallo è divertimento, cerchiamo di divertirci. E il giallo dove lo troviamo dappertutto, a parte nello zafferano anche, ma non solo. Beh sì, lo troviamo anche nello zafferano. Dal punto di vista linguistico si tratta di un prestito mediato dal francese. La parola è una parola del latino imperiale galbinus, che all'italiano arriva appunto per il tramite dei cugini d'Oltralpe, e il termine, l'aggettivo, indicava una tonalità compresa tra il verde pallido e il giallo. Ci riagganciamo quindi a quello che abbiamo già visto nella precedente puntata, a proposito della mancanza di un confine netto tra il verde e il giallo. Quindi il verde e il giallo all'inizio prima erano la stessa cosa, non c'era un modo per chiamare quel colore, si chiamava non verde, era verde chiaro, non era necessario. Sì, certo, perché molte delle sfumature di questi due colori coesistono l'uno accanto all'altro, per cui diventa anche un punto di vista soggettivo l'associazione di una certa sfumatura con l'etichetta giallo o con l'etichetta verde. Cosa c'entra il colore giallo con il nome Flavio? Ti sei preparato questa volta. C'entra perché appunto Galbinus è latino imperiale, latino tardo, mentre nel latino classico troviamo Flavus, da cui il nome Flavio, Flavia, prima per la gens, la famiglia, poi anche per il singolo individuo. E Flavus, o Flavus come era probabilmente nella pronuncia classica, lo troviamo attestato sia per giallo che per biondo. Si ritiene, trovo che sia un dato interessante, che dal punto di vista cromatico Flavus fosse un colore ad intersezione tra verde, bianco e rosso. Ecco, quindi, scusami, la persona bionda era, com'era chiamata, di gialla in poche parole? Giallo o bionda, perché sì. In effetti si tratta appunto dello stesso colore. Ci sono dei biondi artificiali adesso che così tendono più al giallo, in effetti, hai ragione. Hanno ripreso, diciamo, il vecchio modo di dire. Ma dipende sempre da qual è il tuo giallo di riferimento. Se immagini un mondo, che so, contadino, e pensi al grano, la distanza tra il colore dei capelli e il grano non era poi così marcata. È molto simile, come, è vero. Come può esserlo. Andiamo avanti. Posso aggiungere una cosa, sì, sui capelli? Perché gli appassionati di capelli trovano delle caratteristiche per ognuno dei colori diffusi per i capelli. Ad esempio associano il rosso all'impulsività, alla bizzarria, e il biondo alle espressione della dolcezza, della riflessione, il castano all'affettuosità, il bruno alla tenacia, alla concretezza. Non si tratta di associazioni univoche, nel senso che ci sono altri che propongono associazioni differenti, però ecco, mi sembrava interessante segnalare questa associazione tra capello e temperamento della persona. Perché il giallo è gelosia? Perché il giallo è gelosia? Perché è complementare rispetto al rosso, che è l'amore, chissà, visto che giallo e rosso li troviamo sempre insieme. Non parlo solo della bandiera della Roma da tifosa, che poi vivo a Roma, certo. sì. anche però ecco, gli amanti della lettura, sentendo giallo, difficilmente riusciranno a pensare a qualcosa di diverso dai romanzi o tutt'al più dai film gialli. Abbiamo già parlato del perché quel tipo di narrativa si chiami giallo in un'altra puntata del Guerriero. Vale la pena forse di ripeterlo: il nome giallo deriva dal colore della copertina di una serie di polizieschi di Mondadori, talmente fortunata da arrivare ad identificare un intero genere. Molti ritengono il giallo sovrapponibile al nero di noir, al nero di, appunto, del poliziesco nero, ma c'è una differenza tra i due generi narrativi, perché a differenza che nel nero, nel giallo manca una dose di riflessione sulla realtà sociale contemporanea, che è poi ciò che ha portato a creare il nero a partire dal giallo. Vorrei collegare tre postille etimologiche al giallo, perché? Sì. Perché appunto abbiamo il plot, la trama poliziesca, quindi abbiamo abbiamo l'investigazione, che è una pratica, abbiamo la figura dell'investigatore, ed entrambe queste parole derivano dal latino vestigia, che è il plurale di vestigium, che significa suola, pianta del piede, e poi successivamente impronta orma. Ora, una terza parola che leghiamo all'esperienza narrativa del giallo è quella del detective, che riteniamo essere in assoluto una parola dell'inglese e che invece è ancora una volta una parola latina, detegere in origine, e dove questo de è un prefisso privativo, d'accordo, quindi un togliere. E mentre tag è lo stesso tag che tuttora l'italiano usa in tegola, in tetto, ma anche nella parola testo, poiché un testo di qualunque natura sia si ottiene intrecciando dei materiali, quindi che sia un testo scritto, che sia un testo orale, si ottiene intrecciando ma parole quindi o altri elementi. Detective significa detegolare? Sì, in un qualche modo sì, perché è colui che scopre. Ah certo, chiaro, mm-hmm. È vero che sì. Toglie il tetto e quindi guarda l'interno. Sì. Sì, sì, quindi è interessante perché... Anche io pensavo fosse inglese, ovviamente. Beh, naturalmente se guardiamo alla sincronia, cioè se guardiamo a oggi, alla situazione linguistica di oggi, è un anglismo che l'italiano ha preso in prestito e adattato al... è iniziato a far circolare, soprattutto grazie attraverso alla diffusione di questo genere narrativo. Però etimologicamente parlando non si tratta di materiale indigeno per gli inglesi, si tratta di materiale recuperato e manipolato partendo però da una base latina che appunto è la stessa della tegola. E poi potrei continuare parlando dei modi di dire che contengono l'espressione giallo, tanto per instaurare un parallelismo anche con il lavoro che abbiamo fatto sul verde. In questo caso alcuni sono attesi, perché anche in questo caso hanno a che fare con la rabbia, quindi con la bile, con l'essere irascibili, con la stizza, con l'ira, ma ce ne sono anche altri meno noti eppure attestati, tra cui avere i piedi gialli o fare i piedi gialli, essere sui piedi gialli, che viene glossato dai dizionari come assumere un colore che vira al giallo. Lo troviamo associato spesso al vino per indicare un principio di guastamento, ecco, forse lo direi così, insomma, forse quando il vino inizia a prendere d'aceto lo dovremmo chiedere a Paolini, potremmo fare un quesito al gastronauta per sapere, gli potremmo chiedere innanzitutto se lo conosce o l'ha sentito utilizzare. Io non l'ho mai sentito, ma non importa. Vabbè, non faccio testo, ma infatti l'ho detto prima io, prima di te. Scusa. Poi abbiamo diventare giallo di paura e essere raro come i cani gialli. Ecco, questo onestamente non l'avevo mai sentito. Ecco, neanche io. E siamo in due, mm-hmm. Siamo in due a non far testo a questo punto. Esatto, siamo in due a non far testo. E naturalmente è una forma iperbolica, perché appunto è l'equivalente della pecora nera. Forse più che della pecora nera, sì, perché la pecora nera però ha assunto più il significato della pecora diversa, ma anche per comportamento sì. Distaccante sì, rispetto agli altri. No, mi viene più in mente la mosca bianca, ecco. Raro. Essere raro come sì, rarissimo, ecco, un sinonimo di rarissimo. Quindi se volete essere più, cioè, così, se volete differenziarvi dagli altri, posso dire sei una mosca bianca, dite sei un cane giallo. Esatto, giusto? Più ricercato, sei raro come un cane. Ti guarderanno giallo. Malissimo, però, insomma, voi poi potete far ascoltare la puntata del riposo del guerriero, la Dragotto e... Certo. No, non ti guarderanno malissimo. Rideranno giallo, cioè rideranno forzatamente, esatto. Digrignando i denti, tanto per citare un altro modo di dire che contiene il giallo. E ce n'è un altro che associa ancora una volta giallo e rosso, ma in un contesto completamente diverso da quello di cui parlavamo prima, ed è far comparire il giallo per il rosso, quindi vendere lucciole per lanterne, sì. Dire una cosa per un'altra. Tra i proverbi ce ne sono diversi, anche in questo caso ne ho selezionati due: tutto il rosso non è buono e tutto il giallo non è cattivo. E poi chi porta il giallo vagheggia in fallo. Ecco, questo ci ricollega al discorso delle superstizioni di cui abbiamo parlato la scorsa volta a proposito del verde e del viola, perché in questo caso chi porta il giallo vagheggia in fallo sta per il giallo porta disgrazia. Voglio però accomiatarmi con una considerazione di sapore completamente diverso da quanto ho detto finora. Infatti vorrei porre l'attenzione sui mancati effetti di un processo che chiamiamo tecnicamente di lessicalizzazione, cioè il processo che porta alla creazione di una parola comune partendo da una parola, da un nome proprio. E il caso che voglio considerare è quello del Cialis, ovvero la pillola contro le disfunzioni erettili. Perché immagino che molti si chiedano cosa c'entri questo con il giallo. Allora, il Cialis è il diretto concorrente del Viagra. Qual è la considerazione che voglio fare? La fortuna di Viagra è stata tale da imporre il nome Viagra come nome scritto anche con la minuscola, cioè si dice Viagra e ci si riferisce a qualunque farmaco adesso assimilabile, è diventato quindi un nome per antonomasia. Ora, da quando il Viagra è entrato in circolazione, proprio per la fortuna che ha avuto, sono entrati a loro volta in commercio tantissimi concorrenti, e tra questo per l'appunto il Cialis, che è giallo e che ha la forma di diamante. Fetta dopo fetta, Cialis ha rosicchiato quasi il 40% del mercato di questo segmento merceologico. Eppure, e quindi questa è la mia conclusione, nonostante ciò, nonostante questa diffusione che appunto sta ai talloni, che sta tallonando Viagra, per i più Cialis è ancora associato all'idea di pillola blu, la forza dei colori. Il riposo del guerriero. Puntuale è arrivata a trovarmi Alessandra Tedesco, ciao. Ciao, col suo carico di libri, come sempre. Sì. Libri che dovrebbero avere a che fare con il divertimento. Sì, oggi. Sì, vedi, le copertine sono anche carine. Mi dispiace che gli ascoltatori non riescano a vederle in questo momento, ma adesso che riusciamo a parlarne, magari poi hanno la possibilità di cliccare. Le descriveremo anche. Le descriveremo. Allora, il primo libro divertente di cui vi parlo si intitola L'amore è un difetto meraviglioso, pubblicato da Longanesi. L'ha scritto uno scrittore australiano. In Italia conosciamo pochissimo gli scrittori australiani, e invece lui, devo dire che con questa opera prima, tra l'altro, ha avuto un successone incredibile alla Fiera di Francoforte, che è la fiera dove si vendono i diritti internazionali dei libri. Quindi quelli più gettonati sono quelli, insomma, che in teoria sono più carini, più belli degli altri. E di questo libro il cacciatore di libri vi aveva parlato addirittura a gennaio del 2013, quando, come sempre, organizzo la puntata del quali saranno i libri dell'anno, sì. E vi avevo parlato di questo libro. Me ne aveva parlato Giuseppe Strazzeri, che è il direttore editoriale della Longanesi, e me ne aveva parlato così. Il nostro esordio, il nostro debutto di narrativa straniera, che è un libro che posso, credo, a buon diritto definire il libro conteso della Fiera di Francoforte, l'ultima Fiera di Francoforte. C'è stata, come dire, un'asta molto agguerrita tra editori italiani. Solo per dare un'idea, all'interno del gruppo editoriale di cui Longanesi fa parte, c'era una competizione interna fra quattro marchi, per dare l'idea, insomma, di quanto questo autore e questo libro piacesse. Il titolo per noi sarà L'amore è un difetto meraviglioso, e l'autore si chiama Graeme Simsion, è un autore australiano, al suo primo romanzo. È la storia della complicatissima ricerca della felicità e dell'amore da parte di un brillante ma altrettanto solitario studioso di genetica all'università, che è perso, diciamo, nei suoi esperimenti scientifici, nella sua vita fatta di razionalità e di prove e dimostrazioni, si sta rischiando, come dire, di perdere la variabile più sfuggente, che è quella della felicità e dell'amore trovato in un'altra persona. L'amore è un difetto meraviglioso. Stavo leggendone un pezzettino. Vedi che riesco a incuriosirti. Potremmo prendere un gelato dall'altra parte della strada, dissi. Grande idea, purché abbiano l'albicocca. In quel momento pensavo di essermela cavata bene. Non mi sovvenne che la sua preferenza per l'albicocca avrebbe potuto essere un problema. Mi sbagliavo, perché chiaramente nella gelateria l'unico gusto che manca è l'albicocca. E dall'albicocca passiamo invece al pesce ghiaccio, che non è un altro gusto di gelato, ma è un bar che ha a che fare con questo romanzo scritto da Efraim Medina Reyes, pubblicato da Feltrinelli, e si intitola Quello che ancora non sai del pesce ghiaccio. Se non vi fidate dei consigli del cacciatore di libri di Alessandra Tedesco, almeno fidatevi dei consigli di Stefano Benni, che in quanto, insomma, ha ironia ne ha da vendere. E Stefano Benni ha detto: bisogna essere stati a lungo in silenzio per scrivere così. Sulla quarta di copertina c'è scritto: la vita

Ma guarda, sei un matrimonio pugliese. Io ti dico solo che il matrimonio di mio fratello è iniziato alle 11 del mattino. La cerimonia, il pranzo verso le 14. Sono andata via all'una di notte. No, scusa, questo che sto leggendo ho sbagliato. È il menù solo dei dolci. Ah, ecco, vedi come ti ho detto. Sono delle cose. Meringata, torta di fragoline di bosco, torta mimosa, cheesecake, torta di frutta, torta della foresta nera, bicchierini con panna montata, torta d'arancia, mousse di marrone. Io le assaggerei tutte. Biscottini della felicità, spiedini di frutta, tiramisù, sfogliatelle di pere, bignero zabaglione, torta al gran marmier, mille foglie, crème caramel, tazzini di frutta, torta zebrata. Basta questo per, cioè, sì, per vivere un anno. Però i matrimoni pugliesi hanno veramente di tutto, dai super antipasti a poi i primi, i secondi, i contorni, il buffet di dolci, la torta nuziale, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, insomma è una cosa, è uno spettacolo da vedere, chi non ha mai visto un matrimonio pugliese deve. Luca Bianchini mi ha stupito anche nella biografia perché oltre ad aver intervistato gli ABBA ha intervistato anche Harry Potter. Sì. Quindi non so dove l'ha trovato. In un altro mondo. No, devo dire che Luca Bianchini, oltre a essere uno scrittore bravo, tra l'altro che è migliorato molto negli ultimi anni, è anche un amico, insomma è una persona veramente divertente, col tutto che ci facciamo concorrenza perché lui lavora per un'altra radio, va in onda quotidianamente su un'altra radio che non citiamo ovviamente, abbiamo un ottimo rapporto, insomma, di stima reciproca. Senti, a proposito di radio, il cacciatore di libri? Allora, il cacciatore di libri, vi ricordo, va in onda tutti i sabati alle 6:45 del mattino, svegliatevi presto, o alle 21 magari mentre state andando a cena, e nella versione estiva, quindi fino alla prima settimana di settembre, anche in una versione speciale Parole e Musica, tutti i sabati alle 16. Grazie Alessandro Tedesco. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. E adesso dovremmo ridere e divertirci sicuramente con Andrea Ligabue ed Emilio Cozzi, che saluto, ciao entrambi. Andrea Ligabue è il nostro ludologo, esperto di giochi, e invece Emilio Cozzi è l'esperto di videogiochi. Ciao. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Cominciamo con i giochi. Sì. Ah. Allora, parlando di divertimento, ci si infila in un filone di giochi vero e proprio che si chiamano i party games, che sono proprio i giochi che fanno ridere. Che fanno ridere, in cui l'atmosfera che si crea al tavolo spesso prevale rispetto alle regole del gioco. Sì. Cioè il concetto è ci si trova insieme. Che sono molto semplici anche di solito. Diciamo i più famosi, facendo una carrellata storica, sono, per dare un'idea, Taboo e Pictionary, che tutti conoscono, o Creationary, che è l'equivalente del Pictionary fatto dalla Lego. Taboo velocemente è un gioco dove bisogna indovinare una parola e senza dirne altre. Esatto. Quindi, che sono quelle che ti verrebbero in mente subito. Esatto, quindi descrivere una parola avendo dei limiti di quali parole si possono dire. Pictionary è un gioco in cui bisogna disegnare un oggetto e farlo indovinare agli altri. Io faccio solo delle stecche, delle righe e devono capire che cos'è. Concettuale. Sì, molto. E Creationary è la stessa cosa, solo che bisogna costruirlo con i Lego, l'oggetto, e gli altri devono indovinare che oggetto stai costruendo. Quindi diciamo, questi sono i tre classici. Invece io volevo parlare di party games un po' più moderni e forse meno conosciuti. Il primo di cui vi voglio parlare si chiama Dungeon Fighter ed è molto simpatico perché è un party games che cala nelle atmosfere alla HeroQuest, cioè i giocatori sono degli esploratori che devono esplorare una caverna e nel fare questo acquisiscono armi, sconfiggono i mostri. Come combattono i mostri è molto simpatico perché al centro del tavolo si pone un bersaglio e i giocatori lanciano dei dadi su questo bersaglio. A seconda di dove riescono a far atterrare e rotolare i dadi, causano un tot di ferite al mostro. La cosa particolare di questo gioco è che le armi che i giocatori acquisiscono durante la partita gli impongono di tirare i dadi in maniera molto diversa. Ad esempio, uno potrebbe avere un'arma che ti costringe a mettere un dado sul gomito e lanciarlo col gomito. Se riesci però a colpire il mostro, gli causi più ferite. Quindi i giocatori giocano tutti insieme contro il mostro in questa maniera divertente, con questi lanci strani, ed è un vero party games con però anche, diciamo, una certa struttura di gioco molto interessante, edito in Italia da Cranio Creations. Un altro party games molto divertente è Jungle Speed, edito da Asterion, ed è un gioco in cui al centro del tavolo si mette un cono di legno e i giocatori nel proprio turno girano una carta. Se la tua carta ha lo stesso disegno di quella di un altro giocatore, voi due, solo voi due, dovete riuscire ad afferrare il cono al centro. Chi riesce per prima ad afferrarlo dà la sua carta all'avversario e chi finisce prima le carte vince. Ecco, francamente i party game molti nascono dai vecchi giochi che si facevano al mare con le carte da gioco normalissimo. Me lo ricordo bene, si metteva un tappo di bottiglia e se tu estraevi la carta uguale a uno degli altri dovevi prendere il tappo di bottiglia tappo o qualunque chili, altra cosa. Esatto, sì. Che l'altro gioco. Anche perché nei party games, cioè i party games si possono giocare tranquillamente in spiaggia. Ninja, perché di solito hanno dei mazzi di carte, sono molto semplici, esatto, da un punto di vista della struttura. Per cui insomma li consigliamo anche da questo punto di vista. Sì, altri due party games di cui abbiamo già accennato in trasmissioni in altre puntate, molto carini, sono Time's Up, che è un gioco in cui i giocatori devono riuscire a indovinare personaggi famosi descrivendoli prima in maniera dettagliata, poi solo con una parola e poi alla fine solo mimandoli. Oppure un altro gioco molto interessante, nuovo, è Drum Roll, che invece, diciamo, questo è un gioco da tavolo più classico, che però ha come ambientazione un circo, cioè i giocatori sono dei gestori di un circo degli inizi del 1900 e quindi devono riuscire a assoldare i teatranti, costruire il circo. Ma c'è anche tipo la donna cannone e l'uomo forzuto, queste cose. Sì, sì, proprio l'iconografia, tra l'altro anche a livello... È un gioco particolare perché viene dalla Grecia e non sono tanti i giochi di origine greca e gli autori greci. In Italia l'ha pubblicato Jokix, che è un editore di Roma. È un gioco che ha avuto successo un paio d'anni fa, molto molto interessante, non banale, cioè un gioco di strategia carino e volevo segnalarlo in questa puntata. Non hai citato Double? Ovviamente Double è il mio cavallo di battaglia. Per quello. No, è un gioco che io porto ovunque, consiglio di portare sempre in borsetta della propria moglie o nel proprio zainetto. È un party game molto divertente in cui si girano delle carte tonde e lo scopo è riuscire a essere il primo a individuare i due oggetti uguali che ci sono tra le due carte. La cosa simpatica è che gli oggetti sono uguali ma spesso di dimensioni differenti, quindi non è un riconoscimento immediato, ma diciamo si innescano dei processi un pochino più lenti e quindi a volte uno rimane lì a guardare la carta e non è sicuro che ci siano. Invece... No, non a volte, quando giochi a Double cioè l'argomento chiave è esatto. Come ho fatto a non vederlo? Ecco, esatto. Questo era perché te l'ho regalato e vedo sì. Che l'hai giocato. No, molto, ma non solo, guarda, c'è mio nipote che impazzisce e anche gli amici. Questo per quanto riguarda i giochi, ma ci sono i videogiochi anche, ci sono che non anche fanno ridere per niente. Per nulla, infatti evocando i party games, hai ragione, evocando i party games Andrea mi ha tolto tutte le come dire, tutte le armi. Vabbè, ci sono anche i party games e i videogiochi. Esatto, non come dire, non esaurendo il tema, ma di sicuro la maggior parte, non so, evocando Nintendo vengono compresi, Nintendo con Wii e quindi Wii U poi ci ha fatto veramente una rivoluzione videoludica, portando il party games anche sul digitale, quindi sì. Giochi che in quel momento giochi in quel momento per la prima volta diventavano appannaggio anche di un pubblico femminile di un'età diversa rispetto al pubblico precedente, che era più di nicchia tra virgolette, per quanto poi PlayStation, Sony avessero negli anni 90 aperto il mercato, comunque progressivamente si è aperto. Di sicuro il party game su Nintendo ha veramente costituito, configurato una rivoluzione. Detto questo, tolto questo ampio settore, c'è poco da ridere nei videogiochi, letteralmente, nel senso che a parte qualcosa di LucasArts all'inizio, a parte due passaggi di qualche Final Fantasy o qualche gioco giapponese, sfido chiunque a interpretare correttamente lo humor giapponese, esatto, e tolto un intervento di Ricky Gervais in un Grand Theft Auto, che peraltro è un gioco dove veramente da ridere c'è ben poco, non ho molti esempi di comicità nel videogioco. No, perché si ride molto meno da quel punto di vista, cioè prima c'era la comicità e l'ironia della battuta, anche perché i giochi erano più basati su quello, le avventure scritte, quelle da LucasArts per esempio, erano basate su la battuta scritta e quindi la battuta era importante. Oggi invece ci sono i dialoghi, ci sono le traduzioni, prelocalizzazioni, insomma alla fine quindi non a parte appunto qualche battuta i giochi non sono centrati sul divertimento. Cosa che secondo me potrebbe configurare il futuro anche di certe prospettive tematiche che in questo momento stanno ampliando. Si pensa a qualcosa di Portal e Portal 2, c'è uno spirito, un'ironia strisciante in realtà evidente e anche molto efficace. Detto questo, quindi sono stato costretto a interpretare il divertimento, il tema della puntata, un po' avvicinandolo allo sport, facendo finta che non ci siano contiguità con l'ambiente marziale, per quanto poi sport e militarismo vanno molto a braccetto. Ciò detto, sono appena usciti GP13 per gli appassionati di moto, a breve uscirà Assetto Corsa, hanno già parlato anche qui a Riposo del Guerriero, una simulazione italiana, per questo ne parlo, di grandissima verosimiglianza e realismo, e poi tutti i colossi sportivi sono pronti all'uscita, mi riferisco a FIFA 14, a Pro Evolution Soccer 14, il nuovo capitolo, e ai miei amati Madden 25, quest'anno festeggia il 25esimo anniversario, quindi anche gli appassionati di football americano. No, appunto stavo specificando football americano, football, adesso l'hai detto tu. Quei sei appassionati come me di football americano sì. In Italia saranno estremamente contenti. Il polo e il baseball dove lo mettiamo? Il baseball c'è, sul polo... Certo Sul polo il cricket c'è qualcosa? C'è qualcosa, sì. Di cricket c'è l'hockey, ovviamente, sempre Electronic Arts. Cosa? Rugby, io mi ricordavo il gioco. Rugby, sì. Non lo dico perché ci sono degli sport davvero che in Italia non riescono a, insomma, ad avere forza per quanto riguarda i videogiochi. Ci sono degli ottimi giochi di ciclismo, per esempio. Ne è uscito anche uno recentemente. Ne è uscito uno anche recentemente di simulazione e gestione, estremamente interessante e davvero molto divertente, perché poi se uno, anche per esempio, io che non sono un grandissimo appassionato di ciclismo, in un videogioco trovo delle dinamiche talmente coinvolgenti e immersive che vanno al di là del gusto personale. Questo mi appassiona molto, sinceramente. Senti, siccome d'estate si gioca un po' meno con la console, perché sì, si è più fuori, si gioca credo molto più facilmente con il tablet, con il PC portatile o ancora con il telefonino. Che cosa consigli per divertirsi? Tu hai aperto un volume di un'enciclopedia. Sì, ho fatto apposta. Il futuro del gioco, non lo dico certo solo io, è non solo portatile ma anche indossabile. Sì. Ci sono giochi per la strada, videogiochi per la strada, con meccanismi ludici integrati alla vita di tutti i giorni. Attenzione, non si parla della famigerata gamification, cioè non sono dinamiche esportate, forzatamente incastrate appunto nella realtà di tutti i giorni. Al contrario, cioè quello che fai abitualmente può essere interpretato come un gioco e reso più divertente. Dalla spesa a tu giri a caso in una mappa cittadina e ti dice: attenzione, vai al numero 25 data mining del palazzo in via all'incrocio con, dici quanti numeri del citofono ci sono, tu lo fai, vinci un premio spesso in denaro, sono giochi già attivi ahimè solo in alcune zone degli Stati Uniti, e ti diverti come un pazzo. E quindi, come dire, giocherai anche all'aperto. No, scusa, ti sto guardando un po' attonito, francamente, perché è vero, e mi veniva in mente anche fare gli acquisti divertendosi, poi sì, vai alla cassa e paghi con i soldi del Monopoli, però alla fine, ecco. Ma tu trovi sempre un lato pessimistico. No, non è, cioè, dico, no, anche divertimento anche questo, guarda, le ho tirate fuori dalla scatola, sono nuove. Puoi anche tornare dietro, riportare tutto negli scaffali, ti sei solo divertito. Sì. Volevo dire una cosa sul, secondo me, perché sui videogames è più difficile creare la aspetto divertente come magari nei party games, perché spesso nei party games il divertimento è vedere l'altro giocatore in difficoltà, sì, o goffo, fare cose goffe, quando nel videogames, in cui ancora diciamo il target iniziale è il giocatore singolo, è molto più difficile creare una situazione in cui uno non si diverte a vedere se stesso goffo o in difficoltà, mentre si diverte a vedere un compagno che si arrampica sugli specchi per fare una cosa che non è abituata a fare. Quindi questo, secondo me, è anche un motivo per cui nei videogames è più difficile inserire. Questo penso che sia vero. E per chiudere, comunque, Emilio, non so gli italiani quanto siano pronti a giocare mentre vivono la loro vita quotidiana. Guarda qualcosa, sì, qualcosa si è già visto. Anche a Milano c'è questo gioco in cui ci si divide in due fazioni e si devono conquistare delle postazioni, una sorta di Foursquare, però sì, più, come dire, spaziale, l'ambientazione fantascientifica, e pare che c'è gente che perde il tram o arriva in ritardo al lavoro per conquistarsi una postazione e riconquistarne una che aveva perso. Io lo sconsiglio in questo periodo. Comunque facciano tutti quello che vogliono. Grazie Andrea Rigavù ed Emilio Cozzi, a domenica prossima. Il riposo del guerriero. Cinema, televisione, musica, è il momento di Marta Cagnola. Ciao Marta, bentornata. Rieccoci insieme. Allora, oggi il giallo è il colore che contraddistingue la puntata del riposo del guerriero. E il giallo cosa ti ha fatto venire in mente per quanto riguarda il cinema? Io non volevo essere scontato, ho detto vabbè, sì, troviamo dei film gialli. No, invece no. Ho detto vabbè, il giallo, sole, estate, sole, risate. Beh, quando abbiamo pensato comunque, infatti, ai colori dell'estate, il giallo l'abbiamo legato al sole e al divertimento. Allora non ho visto giusto. Ci ho visto giusto. Allora, ho pensato, quest'anno arriveranno delle nuove commedie in Italia per quanto riguarda il cinema. Cosa succede? Succede che nella stagione 2012-2013 le commedie sono andate sempre bene, ma sicuramente in maniera un po' minore rispetto alle stagioni precedenti. Abbiamo avuto il successo di Alessandro Siani, abbiamo avuto comunque dei film che sono andati molto bene. Non abbiamo avuto le grandi commedie sì, grandi successi, da 10 milioni di euro a botta immediata. Ecco, siamo stati un po' più vittima della crisi. Insomma, cosa succederà quest'anno? Beh, intanto bisogna scommettere sul ritorno di Checco Zalone. Sì. Io sono molto favorevole, non solo perché lui è molto intelligente, molto colto e sa far ridere senza essere stupido, e questo è molto importante. Non è sempre facile. Non è sempre facile, soprattutto perché è una comicità a più livelli. Sì, la puoi leggere. La puoi leggere in tanti modi diversi. Sì. E poi perché può far benissimo all'industria cinematografica, appunto, perché, viva Dio, un bel incasso potrebbe dare un bel impulso. Tanto più che lui dovrebbe uscire, uscita annunciata per ora 31 ottobre, quindi non a Natale. Mm. Quando arriveranno anche alcuni film natalizi, non si possono più chiamare cinepanettoni. No, però. Basta. No, no, non si possono più chiamare quella... Finita per ovvie ragioni. Sì. Il film con Checco Zalone e, come sempre, del suo regista Gennaro Nunziante, si intitolerà Sole a Catinelle, quindi giallo, uno sole. Simoro, perfetto. Già abbiamo, no? Ecco, sì. A Catinelle, quindi... insomma, entrerà probabilmente come locuzione nella... sì. Sarà una satira sui ricconi. Lui, Checco Zalone, come spesso accadeva nella commedia all'italiana, sì, tradizionale, ecco, è proprio la commedia all'italiana, diciamo, prende i paradossi, vengono poi raccontati, no? Lui è lui si definisce un cafoncello che, sì, cerca di diventare imprenditore e che però viene a contatto con un mondo spesso volgare. Sì, più cafone di lui. Più cafone di lui. Quindi, insomma, mi sembra un film molto, appunto, molto... Molto commedia all'italiana. Molto commedia all'italiana, come, sì, sì, sì. Come plot, sì, no? Sì, sì. Molto ispirato poi vedremo ad alcuni, un po'. Sì. Sì, molto ispirato ad alcuni modelli classici. Usciranno anche Enrico Brignano, l'abbiamo incontrato a giugno a Taormina, con invece un remake... di un film francese, sì, per sfortuna che ci sei, sarà con Ambrangiolini. Insomma, lui è un uomo che purtroppo porta sfortuna alle sue fidanzate. Usciranno Luca e Paolo, sì, che saranno protagonisti del nuovo film di De Laurentiis. Per questo ti dico che non ci sarà precisamente un cinepanettone. Uscirà anche Piff, ma non con un film comico. Piff si è, per il suo esordio al cinema, ha deciso di dedicarsi a una storia di mafia ispirata a una delle puntate del suo testimone. E anche questo sarà particolarmente interessante, il film di Piff prodotto da Brizzi. Quindi, insomma, anche qui si spera in un bell'impulso per il cinema italiano. Invece, per quanto riguarda le commedie americane, sì, a me divertono sempre. La commedia americana mi tira su di morale. Mi piace uscire dal cinema con una solida commediona, anche un po' scemona, americana. Ecco, a volte sono un po' troppo sceme. Questa è abbastanza scema, ma voglio spingerti a un'altra riflessione. Sì. Allora, uscita giovedì 12 settembre con la mia amata Jennifer Aniston, quindi io già sto a posto. Il titolo è The Millers, We Are The Millers, siamo i Millers. I Millers, sì, sono una brava famiglia americana sana che si dedica allo spaccio di marijuana. Ah, ok. Ecco, vabbè. Quindi, insomma, l'erba di Grace aveva già raccontato, però sì, un po' il contrasto tra le brave persone e il lavoro non proprio pulitissimo e legalissimo. Beh, un lavoro verde andava bene per la puntata della settimana scorsa. Era un lavoro verde. Beh, più quello dell'erba di Grace, perché coltivava, sì, lei aveva proprio la serra. Ma We're the Millers viene tradotto in italiano, tieniti, in Come ti spaccio la famiglia. Ah beh, perché c'è la parola spaccio, ecco per quello, sì, ecco. Quindi hanno legato questa cosa, cioè, non c'entra niente, però funziona di più da un punto di vista di marketing. Purtroppo questo brutto vizio dei distributori italiani, e lo dico chiaramente senza paura che qualcuno si arrabbi. Comunque posso fare i complimenti a chi ha dato quel titolo, perché, sì, comunque c'è un po' di creatività. Sì, c'è un po' ammetto, di creatività, sì, però spesso allontanano. Beh, dal no? In questo caso non so quanto allontani, però, sì, perché noi siamo i Miller, non vuol dire niente, a meno ma che il cognome Miller, Miller, hai capito, Miller, magari Miller per gli americani può voler dire qualcosa. Invece in italiano un titolo così ti avvicina un po' di più alla trama. Dai, non dobbiamo essere... No, io sono... No. Anch'io sono contrario. Come ti spaccio la famiglia, mi ricorda subito Se mi lasci ti cancello, via. Sono ancora arrabbiata. Parliamo un po' di TV. Come no? Io sai che sono un'appassionata di serie carine, simpatiche, spiritose. Mi piace arrivare a casa e guardarmi un episodio di una serie TV per riconciliarmi col mondo. Tanto 20 o 40 minuti sono rapide, sì, passano, un momento di relax molto veloce. Il film ti impegna, richiede più impegno, cioè, invece la serie TV mentre sbrighi casa è qualcosa, ecco, che non in Simpson, perché se perdi devi stare attentissimo, perché sono talmente veloci che se perdi una parola non hai capito tutta la trama. E poi ci sono anche invece serie più impegnative, ma qui c'è un esordio per il quale io sono veramente molto curiosa. Allora, CBS, sì, il creatore di Ally McBeal e The Practice, il titolo è The Crazy Ones, e chi è il protagonista nei panni di Simon Roberts, leggo, eclettico direttore di una potente agenzia pubblicitaria che vanta collaborazioni lavorative con i marchi più famosi in circolazione? Ebbene, il protagonista è Robin Williams. Quindi, ripescato diciamo così, Robin Williams, per il telefilm, voglio dire, perché, sì, insomma, perché lui è partito da lì e poi noi siamo cresciuti con Mork e Mindy, insomma. Poi diventa attore importante e poi ritorna quindi alle serie televisive. David E. Kelly, quindi appunto la mente di Ally McBeal e The Practice, quindi è un po' come affidarsi veramente a una firma consolidata, consolidatissima. È riuscito a riportare sul piccolo schermo Robin Williams. Ovviamente ci sono le storie lavorative e credo che siano molto diverse da quelle dei pubblicitari di Mad Men, altra serie che invece richiede molta concentrazione. Insomma, poi c'è la collega Sarah Michelle Gellar, anche qui volto notissimo, e poi che è poi anche la figlia di Simon, quindi anche l'aspetto familiare, insomma, diciamo che è curioso come i pubblicitari negli Stati Uniti vengano visti tutti come pazzi, perché anche in questo caso il titolo è crazy. Ci sarà qualcosa, no? The Crazy One, ecco, ci sarà qualcosa? Cioè, i pazzi vuol dire, ecco. Chissà, non so se c'è un Però non è di... per forza così, però a quanto pare negli Stati Uniti sì. Ecco. A quanto pare negli Stati Uniti sì, diciamo che quelli di Mad Men, oltre a essere pazzi, erano anche belli dediti all'alcol, si fuori di testa vizi, in tanti sensi. Ecco, questi invece mi sembrano sicuramente più simpatici. Ecco. Poi vabbè, appunto, Robin Williams e la Buffy l'ammazza vampiri Sarah Michelle Gellar, secondo me le premesse sarà più comico, almeno come idea, sì. E la musica invece per chiudere, allora, giallo, ho pensato a qualche cantante divertente, qualcuno che ci ha fatto divertire, siccome abbiamo parlato di Sting, sì, vi dicevo, c'è un altro grande ritorno, un altro cantante che ci ha fatto divertire tantissimo negli anni scorsi, Sting, che dicevamo potrebbe riavvicinarsi alle atmosfere degli anni 80. Questo grande artista ha detto: che tipo di musica voglio davvero suonare adesso? Per andare avanti devo prima tornare indietro. Quindi, se torna indietro alle ispirazioni originali, uno come Elton John, siamo a posto. Sì. Siamo a posto perché, insomma, dovrebbe uscire il 16 settembre, appunto le date sono tutte abbastanza confermate, ma insomma, non si sa mai, The Diving Board, è il suo primo disco solista di inediti da The Captain and the Kid del 2006. Qui torniamo alle sonorità dei primi album degli anni 70, che sono poi forse tra i più belli. Sì, abbiamo visto anni 70 questa volta, anni 80 con l'album di Sting, quindi comunque si sta tornando indietro da questo punto di vista. Ma che stiamo prendendo la rincorsa? Stando indietro lo dico in senso positivo. No, cioè si pesca quello che c'era da pescare, perché poi la musica degli anni 90 comincia a essere una musica fatta dai DJ, è molto diverso rispetto alla musica che l'aveva preceduta, quindi sono contento che si torni lì. Elton John aveva perso un po' il filo negli ultimi anni, comunque quest'estate è già in giro, quindi ha già fatto sentire un po' di cose, diciamo che sono contenta che il nostro Reginald torni in pista e vedremo quale giacca sfoggerà. Ovviamente grazie Marta Cagnola, ci sentiamo domenica prossima. Alla prossima settimana. Il riposo del guerriero. È il momento del nostro cinegustologo Marco Lombardi. Ciao, buona domenica. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Siccome è estate, questa volta abbiamo parlato di insalate la settimana scorsa, non parleremo di cibi, ma di bevande, perché dobbiamo rinfrescarci l'ugola, ma bevande associate al divertimento e al colore giallo, che è il colore che rappresenta la puntata di oggi del Riposo del Guerriero. Marco. Sì, anche perché con la scorsa puntata siamo dimagriti tutti a forza di mangiare insalate, quindi stavolta forse possiamo... tu, perché io no, neanche un grammo. Che stai mangiando in questo periodo? Il microfono ti stai mangiando? Non solo l'insalata, ovviamente. Ecco. Vabbè, insomma, anche delle belle costate alla griglia, sai, d'estate, volentieri. Comunque. Beh, in effetti sì, anche per anche i piatti invernali mangiati d'estate hanno un loro perché, vabbè. E c'hanno anche un loro perché le birre che sono gialle, poi ci sono anche le birre rosse, ci sono le birre però, scure, però insomma la birra parte dal colore giallo, ambrato, arancione, insomma siamo in quei dintorni. In teoria la birra con la sua caloricità sarebbe invernale, però una birra bella ghiacciata su un tavolino sotto l'ombrellone con davanti il mare, tutti spaparanzati sulla sedia a sdraio senza muovere un solo dito e un solo muscolo, e insomma c'ha il suo perché. È l'immagine di Homer Simpson, ne parleremo. Sì, infatti, quella vero. Che hai dato tu in questo momento, comunque poi vedremo, lo citerai. E in effetti mi sono fotografato come stavo qualche giorno fa, vabbè, spero di avere, che avessi un po' più di dignità di Homer Simpson, ma invece le birre, secondo me, i Simpson ne parleremo dopo, sanno di Tim Burton, perché le birre hanno questa cremosità, questa ipercolorazione che fanno un po' pensare all'ambiente fiabesco e in particolare secondo me alle favole nere nel senso appunto che non sono molto rasserenanti, anche se le favole mai sono rasserenanti, di Tim Burton. Che cosa c'è di Tim Burton? Cos'ha di birroso Tim Burton oltre a questa consistenza e questa cromaticità? Il finale amarissimo, anche qua ne avevamo già parlato l'altra volta con le insalate, spesso e volentieri bevande, piatti hanno dei finali amari, il caffè su tutti, anzi il caffè c'è anche un po' l'inizio amaro, e perché tutti i film di Tim Burton insomma, sono intorno a una figura, a un eroe solitario, fondamentalmente un emarginato, al quale vogliamo bene, che è raccontato in maniera fiabesca, tenera, eccetera eccetera, ma di fatto sono film terribili, sono film drammatici, perché comunque questo antieroe non riesce mai a raggiungere i propri obiettivi di vita, è sempre considerato dagli altri come un elemento a sé in ambito sociale, a partire da Tim Burton, da Edward Manenforbice. Dico lapsus Tim Burton non è a caso, perché Johnny Depp è veramente l'alter ego di Tim Burton in tutti i suoi film. In pratica il protagonista rivela un po' una fetta del regista stesso, della sua esperienza di vita. Edward Manenforbice è una birra, ed è una birra però molto insomma divertente, colorata, il film del 1990, e quindi secondo me è una birra di quelle floreali. Ultimamente le birre sono il campo di sperimentazione più ampio, molto di più che rispetto ai vini, che sono un po' dei prodotti maturi in termini di mercato. Invece nelle birre i produttori artigianali ci mettono un po' di tutto, ci mettono fiori, frutta, cioccolata, la carruba, di tutto e di più. E secondo me appunto Edward Manenforbice è una birra che ha al suo interno dei sentori floreali, non so, mi viene in mente la camomilla in questo momento, e spero di non far addormentare né te né gli ascoltatori dicendo questo. Poi ci sono invece delle birre che hanno dei sentori di frutta, soprattutto di frutta matura, e qui mi viene in mente un Big Fish, che è un film tratto da un romanzo meraviglioso, è un film che annoda lo stomaco, soprattutto per il pubblico maschile, perché è tutto incentrato sul rapporto tra un figlio che non crede al padre, che continua a raccontare delle storie incredibili, alla fine forse si rassegnerà, è proprio il momento in cui si rassegnerà l'idea di considerare vero o false queste storie, che il rapporto tra il padre e il figlio decollerà. E poi ci sono delle birre ancora molto molto più intense, senza arrivare alle scure, almeno quelle ambrate, che invece mi fanno pensare a un Tim Burton più acceso, ad esempio Sweeney Todd, un meraviglioso musical del 2007, dove oltretutto insomma, c'è anche un po' di gastronomia, perché il protagonista, per vendicarsi di un torto pazzesco subito nel passato, insieme a una donna uccide le persone e le fa diventare polpette, che le quali poi vengono vendute al pubblico. Per 15 anni ho sognato di tornare a casa da mia moglie e mia figlia. Benjamin Barker. Nessun Barker. C'è solo Sweeney Todd adesso e avrà la sua vendetta. Dov'è mia moglie? Allora, ci siamo bevuti le birre, ci siamo ubriacati, adesso ci vuole qualcosa che pulisca il palato. E naturalmente sempre di giallo, qualcosa di divertente, qualche cosa di estivo, e quindi insomma il giallo fa pensare al limone, e il limone per forza d'estate finisce in un gelato, in una granita. E io parto dalle granite, ma insomma, parto anche dall'idea forse più in generale di granite e di gelato, che mi fa pensare a degli autori importanti che hanno una loro forte acidità, il limone è profondamente acido, e sono anche freddi, tra virgolette, perché il limone all'interno appunto del gelato della granita è come ha un modo di esprimersi contenuto, come se qualcosa venisse trattenuto della propria aromaticità. E allora partirei dalla granita, una granita al limone senza zucchero, magari quella fatta con dei pezzi di ghiaccio ancora piuttosto grossi che si sentono al palato, irregolari. La vera granita, quella pestata nel mortaio, no? Esattamente, che non so, a Roma la chiamano la gratta checca, ogni città c'ha il suo nome. Insomma, io forse non ho molto digerito quando ho studiato cinema un po' di anni fa Bergman, che riconosco che sia comunque un grande regista, però al posto delle fragole c'è ancora la fragola che mi è rimasta qui tra la trachea e lo stomaco, e quindi secondo me Bergman, in particolare Il posto delle fragole, che inizia con un incubo, non nel senso della visione dello spettatore, ma proprio a livello narrativo, estremamente acido, estremamente freddo. Bergman racconta in profondità la psiche umana, ma lo fa in maniera scientifica, quindi in maniera molto fredda, in maniera molto nord-europea. E quindi secondo me Bergman è veramente una granita al limone senza zucchero, anzi proprio veramente dove l'acido lo senti tutto e non hai nessun arrotondamento dato dalla dolcezza dello zucchero. Poi invece passiamo al gelato al limone, anche qui un autore freddo, un autore invece molto più contemporaneo, un certo Steven Soderbergh, che vinse nell'89 con la sua opera prima il Festival di Cannes, Sesso, bugie, videotape. Soderbergh allora era un gelato al limone con poco zucchero, dove il limone e l'acidità si sentiva piuttosto forte. Poi via via ha fatto altri film, molti altri film, sempre un po' più rotondi, un po' più dolci, dove ha cercato di contenere la sua freddezza e la sua acidità all'interno di una struttura anche un po' più commerciale. Uno ne è uscito di recente, pochi mesi fa, Effetti collaterali, un noir molto interessante, vedi, un noir feroce, il colore giallo, il giallo il noir in qualche modo dialogano, quindi anche i colori hanno una loro matematicità probabilmente. E poi l'ultimissimo film, che è stato presentato a maggio all'ultimo Festival di Cannes, Behind the Candelabra, che è ancora ulteriormente dolce, quindi si sente l'acidità del limone, c'è la freddezza, però è un film di grandi attori con Michael Douglas, che racconta oltretutto una storia vera. È un buon film, diciamo, però è un gelato forse un po' più al limone, un po' più industriale. Poi c'è anche un'altra cosa che oramai si usa abbastanza poco, la cremolata. Non so se tu l'hai mai mangiata, te la ricordi? Solo per nome, ma credo non l'ho neanche mai assaggiata. La cremolata alla fine è come se fosse una granita, però ha la consistenza, il ghiaccio è proprio cremolato, quindi ha una consistenza e una regolarità, ecco, non è come la granita rotta, dove il ghiaccio viene rotto con i punteruoli, quelli di Basic Instinct, rompi ghiaccio, ma è rotta in maniera industriale, quindi i granelli sono tutti uguali gli uni agli altri, e quindi c'è una sua regolarità che a me fa pensare al cinema di Kubrick, che anche lui è un grande scienziato della settima arte, ma un grande, appunto, uno molto attento alla perfezione assoluta, quindi è impossibile che un pezzo di ghiaccio sia diverso dall'altro. Ma più che il limone, io qua ci metterei il cedro, che insomma alla fine è ancora ha molto più aspro, che vedere. Sì, esattamente, più aspro, poi c'è anche una maggiore aromaticità, insomma è molto più complesso in maniera invisibile, però se uno si assaggia un cedro al naturale e lo paragona a un limone medio, si sente la differenza. E quindi insomma Kubrick potrebbe essere anche il primissimo Kubrick, no, primo, il secondo, diciamo, quello di Barry Lyndon, no, invece il primissimo, quello di Lolita nel 63, e poi vabbè il capolavoro di sempre, 2001, Odissea nello spazio del 1968. E quindi ci siamo adesso puliti il palato dopo le birre con le granite al limone, il gelato al limone. Che ci beviamo adesso? Pensiamo che i bambini, va, che bevono una bella aranciata per rinfrescarsi l'estate. Ma guarda un po', proprio quella di quella volevo parlare, però ci sono vari tipi di aranciata, a parte ci sono le aranciate industriali, le aranciate artigianali, noi stiamo su quelle artigianali, va? E c'è quella classica e quella amara. A me l'aranciata in generale fa pensare un po', per la sua effervescenza a volte pericolosa, che è associabile invece alla stanza dei cuscini di Fantozzi, ma non è quella la cosa di cui vogliamo parlare adesso. quindi qualcosa di anche qui di un po' di fiabesco e insomma l'animazione, il genere dell'animazione. L'aranciata classica, che è dolce, ha sicuramente al suo interno anche un'acidità, però appunto è coperta dagli zuccheri e dai molti, ahimè, aromi naturali che vengono messi all'interno, mi fa pensare a un classico della Disney, potrebbe essere Cenerentola del 1950, I tre porcellini, che oltretutto come abbinamento la carne di maiale con un'aranciata appunto acida, sgrassante, potrebbe anche andare bene, però I tre porcellini ce la fanno, sopravvivono, quindi non possiamo fare questo abbinamento, sennò sarebbe un carpaccio di porcellino. E dopo l'aranciata normale c'è l'aranciata un po' più anormale, che è quella amara, ha questa, poi si chiama impropriamente amara perché dentro c'è tutta una serie di aromi che ci danno l'idea dell'amaro, ci danno un'idea di acido molto più invadente, penetrante e dissacrante, tant'è che non tutti la amano. E qui allora il parallelo può essere sempre con l'animazione, ma un'animazione molto più moderna, molto più fuori dagli schemi, molto più politicamente scorretta, e potrebbe essere quella di Shrek, il primo Shrek del 2001, oppure dei Simpson, ecco, vedi che ritornano, come dicevamo all'inizio, Homer che si stava bevendo la birra sullo sdraio davanti al mare, che insomma i Simpson sono una serie televisiva che non ha un anno di riferimento specifico. Come ci sono finite le impronte del maiale sul soffitto? Spider pork, spider pork, il soffitto tu mi spork, tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto, tu qua ti amo spider pork. E questo era il film, per esempio, io ce l'avevo in testa, per cui ridevo da solo soltanto ad ascoltare Homer Simpson. Grazie Marco Lombardi, cinegustologia.it, ci sentiamo con altri piatti e altri film la settimana prossima. Il riposo del guerriero. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Io bevo Oliveto, acqua della salute. Vi presenta le suggestioni del gastronauta. Io devo dire una cosa, quando invito Davide Paolini, il gastronauta, in trasmissione, io l'ho sempre, giuro, se sono tanti anni ormai, l'ho sempre visto con il sorriso. Non so se è proprio il tuo mestiere che ti porta a sorridere ogni momento, o comunque tu sei un felice di natura. No, ti svegli già con... Non mi hai mai visto quando sono incazzato. No, è probabilmente vero, oppure lo cancelli prima di entrare qui, che va bene. Però, non so, forse ti piace talmente pensare al cibo, al gusto, comunque mette piacere anche sorriso. Beh, no? Sicuramente è molto meglio pensare al cibo che avere un'azienda di pompe funebri. No, sicuramente. No, a parte quello. Quindi dico no, certo. Dipende dagli incassi, no, perché sì. Il cibo mette allegria sicuramente, soprattutto magari il vino mette allegria, il bere mette allegria, ma anche il mangiare, cioè il mangiare non per alimentarsi, ma il mangiare per il piacere, che sono deve cose essere così. Che sono due cose completamente diverse. Certo. Però molte volte si mangia anche per l'alimentazione. A mezzogiorno io molte volte dico sempre mangio per nutrirmi e non per divertirmi. Io no, magari anche una piccola cosa, però deve essere un piacere anche a mezzogiorno. Magari rinuncio a tutto, però quella cosa lì, una sola... Beh, tu pensa che io a mezzogiorno molte volte mi costringo a mangiare l'insalata. Che è una cosa che proprio tu... È già la seconda volta che lo dici. Sì, non ti va giù. Perché non hanno sapore, secondo me. I ravanelli, così. Devi sempre metterci qualcosa. Io ci metto l'aceto balsamico. Appunto. Così appunto. Sa tutto di aceto balsamico. Vedi, chi ci mette l'olio, chi ci mette il sale. Ad esempio, mettere il sale, secondo me, nelle insalate è un errore clamoroso. Io non lo metto, infatti. Come mettere lo zucchero nella frutta, mamma mia. È veramente un sacrilegio. Però si fa, insomma. Si fa, però la frutta contiene zuccheri. Sì. Le insalate contengono diciamo minerali, sì. Quindi c'è qualcosa che strega. A noi ci piace condire. Vabbè, insomma. A noi ci piace. Esatto, come dici tu, la cucina buona è quella che piace. Certo, oh, là. Certo. Allora, parliamo di divertimento. Ci sono dei posti dove si può andare anche proprio per sorridere, dal punto di vista non solo del piacere, del gusto di quello che si mangia, ma anche per sorridere. Guarda, più passa il tempo, io più mi rendo conto che mangiare per il gusto di mangiare e di gustare non, diciamo che non ha senso. Bisogna anche divertirsi. E molte volte quando vedo dei locali molto tristi, anche se si mangia molto bene, sì, magari ci torno una volta, poi non ho più la voglia di tornarci, perché sempre più ho la voglia di andare in posti dove ci si diverte anche. Sì. Io credo che ormai ci sia, come posso dire, questo binomio. non dico che devo divertirmi a fare delle matte risate. No, non stiamo parlando di balli sul tavolo. Magari succede, può succedere anche questo. Una volta mi è anche successo, mi hanno anche strappato la camicia. Vabbè, a parte questo. Veri. Ero a Milano, pensa. No, lo posso anche dire, all'osteria del treno, guarda. Sì, in un posto. In un posto dopo un finale di una manifestazione. Ma devo dire che bisogna divertirsi. Sì. Cioè bisogna entrare in un posto che ci sia anche tutto il resto, che ti dà il piacere di essere lì. Perché se tu stai curvo sul piatto, prendi appunti e fotografi, ma che cacchio di divertimento è? Ecco, per esempio, il fatto che in molti posti il gestore o il proprietario del ristorante è quello che viene a prendere le ordinazioni. E io credo che sia un buon modo di approcciare il cliente, perché così il cliente conosce la proprietà, magari appunto con un sorriso, eccetera, e tu non hai l'interfaccia del cameriere, no? Dopo il cameriere è quello che ti porterà poi le portate, eccetera. Ma sai, ormai molti cuochi lo fanno, nel senso che sono loro stessi che spiegano un po', sì, qual è il menù, ti spiegano magari se c'è qualcosa fuori menù. Credo che sia un fatto importante perché ti mette a tuo agio, cioè ti fa già conoscere. Beh, il problema è che non siano delle facce seriose che vengano come con matita e penna pronti a prendere appunti. Beh, allora casca un po', sembra di essere a scuola in quei casi lì, no? Oppure c'è qualcuno che ti detta legge, ti dice questo va mangiato, va bevuto con questo vino, questo è fatto in questa, sì, maniera. Io devo dire che molte volte ho anche scritto che rifiuto laddove c'è chi presenta il menù, qualcuno che esegue un canto gregoriano. Sai, presente il canto gregoriano? Sì. Ecco, molte volte mi è successo entrare nei ristoranti pomposi con il canto gregoriano. Mi viene voglia di uscire. Allora, devo dire che devo essere io a chiedere spiegazioni. Certo, posso chiedere... È che puoi avere coraggio di chiederle, ecco, perché molti magari si fanno il problema di... Ma è un diritto, è un diritto del consumatore. È un diritto del consumatore di mandare indietro un piatto che non va bene. E poi magari te lo fanno anche pagare, però purtroppo spesso puoi avere la soddisfazione di rimandarli indietro. Certo, sì, questo succede come? Succede. A me è successo una volta una cosa incredibile, la racconto perché è molto divertente. Ero in una birreria in Austria, a un certo punto, zac, mi cade una zanzara nel bicchiere, c'era una zanzariera, eravamo in quattro, mi ricordo, e io faccio notare al cameriere che c'era una zanzara, gli do il bicchiere, lui me lo porta via, poi andiamo a pagare alla cassa, e calcola 5 birre. Dico, ma no, noi ne abbiamo bevute 4 perché una c'era la zanzara. Sai cosa mi hai risposto? Non l'ho mica messo io la zanzara. Beh, certo, quindi, anzi, era ancora più buona perché era saporita. Beh, cioè, i mangiatori di insetti, sì. Ecco, su quella cosa lì, sul fatto di quando si fa cambiare una bottiglia di vino, sono cose diverse forse, o si fa cambiare un piatto perché o non piace o proprio c'è qualcosa che non va. Un piatto non piace tendenzialmente, o magari è cotto male, la carne è troppo dura, faccio un esempio. E nella tua esperienza, i ristoranti, due cose, come si comportano e come dovrebbero comportarsi? Ma distinguiamo, cioè una bottiglia che sa di tappo è inequivocabile che venga rimandata indietro e ti deve essere cambiata. Per forza. Poi sono problemi, molti ristoratori sostengono che il produttore poi non gliela ricambia. Questi però sono fatti loro, perché in quel momento sono loro che garantiscono. Per Sai perché bottiglia. Te lo chiedo? È vero anche che è sindacabile quello, nel senso che a volte chi ha preso la bottiglia sente il tappo e invece il ristoratore dice no, per me non c'è, però a quel punto ha ragione il cliente. Beh, certo, credo, ha ragione, no? Il cliente, certo. Dico per, magari si chiama un terzo al tavolo vicino. Vabbè, diventa complicato. No, invece sui piatti è diverso, cioè se c'è un qualcosa che diciamo disturba il gusto, ecco, diciamo se c'è così. Un qualcosa che non ti piace non puoi rimandarlo indietro. Lo puoi rimandare indietro, ma te lo paghi, sì, perché hai fatto la scelta sbagliata. Se invece c'è, che ne so, una carne che puzza, sì, o dura, o semplicemente cotta male, oppure c'è una pasta che è stracotta, immangiabile, sì, che tu hai chiesto un risotto e ti arriva una minestra di riso, anche lì sì, è sindacabile, però gliela rimandi indietro. Quindi un difetto della qualità, un difetto del prodotto, sicuramente è giusto mandarlo indietro. Poi casomai chiami i vigili. Come si comportano i ristoratori da questo punto di vista nella tua esperienza? Dipende, perché ci sono ristoratori che capiscono che possono perdere il cliente, altri invece capendo che tu sei di passaggio se ne fregano come e te lo mettono sul conto. Quindi è veramente difficile, perché a quel punto lì dovresti chiamare un vigile urbano, magari sei in vacanza, ma chi lo fa, come questo, certo, questo periodo stai a perdere tempo, tutta una serie di cose. Quindi molte volte per non perdere tempo noi lasciamo dei nostri diritti veramente sul tavolo. Hai dei posti da suggerirci particolarmente divertenti o dove ti sei trovato particolarmente bene, proprio con il sorriso, ma da guarda, tutti i punti di vista? Io mi diverto molto all'Enoteca di Pietrasanta da Michele, perché Michele, diciamo, ha il dono dell'anfitrione. Sì. E quindi è un posto molto divertente che ci vado volentieri, al di là del cibo che è buono, del vino che è straordinario, però ci vado molto volentieri per questo motivo. Poi mi capita anche, c'è un'osteria che in questo, mi spiace che in questo momento è chiusa, Villa Raverio, vicino a Carate Brianza, che si chiama il Cenacolo dei Pittori, dove c'è un personaggio, un cuoco abbastanza bizzarro che delle volte ti azzecca dei piatti veramente inventati da lui, incredibili, come il tiramisù estivo, che è veramente una cosa in questo periodo da assaggiare, oppure magari fa di testa sua, metti il burro dove non va messo il burro, però mi diverto, è un posto dove ci vado che mi diverto. Grazie Davide Porini al Gastronauta, ci sentiamo domenica prossima. È tutto per questa puntata del Riposo del Guerriero versione estiva, ma torniamo domenica prossima, ovviamente, con l'azzurro, altro colore dell'estate, colore dedicato, diciamo così, alla felicità e al piacere. Quindi di questo parleremo. Grazie a Giuseppe De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia, ovviamente a voi. Buona settimana da Stefano Gallarini.